Capitolo 6. Beth trova il Palazzo Magnifico. La grande casa era proprio il Palazzo Magnifico, ma ci volle qualche tempo perché tutte potessero entrarvi. Per Beth fu assai duro il passaggio davanti ai leoni. Il leone più grosso era il signor Lawrence, ma quando egli ebbe fatto loro una visita, scherzato un po' con le ragazze e rievocato con la mamma i tempi lontani, non fece più molta paura a nessuna, meno che a Beth, timida come sempre. L'altro leone era rappresentato dal fatto che esse erano povere e Lori era ricco, perciò erano restie ad accettare favori che non potevano ricambiare. Ma, passato un po' di tempo, si resero conto che era lui che si considerava il beneficato e non gli pareva di fare mai abbastanza per mostrare quanta riconoscenza sentiva per l'accoglienza materna della signora March e per la loro compagnia allegra, e quanto si trovava bene nella loro modesta dimora, sicché in breve esse misero da parte l'orgoglio e scambiarono gentilezze con lui, senza stare tanto a guardare chi rimaneva in debito o in credito. In quel tempo accaddero tante belle cose. La loro nuova amicizia fiorì come i prati a primavera. Tutte volevano bene a Lori, ed egli confidava al suo precettore che le Marce erano ragazze simpaticissime. Col bel entusiasmo della gioventù, essi accolsero fra loro il fanciullo solitario e lo tennero assai caro, ed egli trovò un'attrattiva potente nella innocente compagnia di quelle quattro figliuole semplici. Non avendo mai conosciuto madre né sorelle, sentì ben presto l'influenza benefica che avevano le piccole donne su di lui. E vedendo la loro vita attiva e movimentata, si vergognò della sua indolenza, provò sazietà di quegli eterni libri e trovò molto più interessanti le persone vive, tanto che il signor Brooke ebbe a fare rapporti sfavorevoli perché il suo allievo faceva sempre forca per scappare dalle ragazze. Oh, non fa niente, diceva il vecchio nonno, lasciategli prendere un po' di vacanza, si rifarà dopo. La nostra buona vicina dice che studia troppo e che ha bisogno di compagnie giovani, di svago, di movimento. Sospetto che abbia ragione. Questo ragazzo io forse l'ho tenuto nella bambagia come avrebbe fatto una nonna. Lasciamolo fare un po' a modo suo finché vuole. Male non gliene può capitare in quell'educandato lì. Quello che può fare per lui la signora March, noi non potremmo farlo mai. Ah, che bei tempi furono quelli, giochi, recite, galoppate in slitta, pattinaggio sul ghiaccio e piacevoli serate nel vecchio salotto e ogni tanto qualche ricevimento non meno lieto nella gran casa signorile. Meg entrava nella serra quando voleva e faceva dei magnifici mazzi di fiori. Joe divorava avidamente i libri della biblioteca e faceva scoppiare dalle risa il vecchio signore con le sue critiche. Amy copiava quadri, si godeva tante belle cose a piacer suo. E Lori faceva la parte del signor ospitale nel suo maniero con simpatia e disinvolta correttezza. Ma la povera Beth, per quanto sognasse notte e giorno il magnifico pianoforte, non trovava il coraggio di andarci nella dimora della felicità, come la chiamava Meg. Ci andò una volta con Joe, ma il vecchio signore, non sapendo quanto essa era timida di sotto i cespugli delle sopracciglia, la fissò così truce e fece: «Eh?» così forte che la povera bimba ebbe paura, cominciò a tremare e scappò prima che le mancassero le gambe, come disse poi alla mamma, dichiarandole che non ci avrebbe più messo piede nemmeno per quello stupendo pianoforte. Né ragionamenti né blandizie bastarono a vincere la sua paura. Ma avvenuta la cosa, chissà perché via, all'orecchio del signor Lawrence, questi si accinse a metterci rimedio. In una delle sue brevi visite, egli portò abilmente il discorso sulla musica e sui gran cantanti che aveva visto sulle scene e sugli organi magnifici che aveva udito suonare, e raccontava tanti aneddoti deliziosi che Beth non poté resistere, e dal suo cantuccio remoto, un po' alla volta, tenendo il fiato, come attratta da un fascino, si avvicinò e se ne stette lì dietro la sedia del signor Lawrence, spalancando tanto di occhi, rossa in volto e agitata da una curiosità irresistibile. Egli allora, che faceva finta di non vederla, quasi che lei non esistesse, parlando con la signora March delle lezioni e dei maestri di Lori, come se un'idea gli fosse passata casualmente per il capo, venne fuori con queste parole: «Quel ragazzo adesso la trascura, la musica, e io ne sono contento perché ci si appassionava troppo. Ma il piano, se non si adopera, ne soffre. Dispiacerebbe a queste signorine di venirci qualche volta, l'una o l'altra, a fare un po' di esercizio, tanto per mantenerlo accordato, sapete?» Irresistibilmente Beth fece un passo innanzi, tenendo le dita intrecciate per non battere le mani. La tentazione era troppo forte e l'idea di fare i suoi esercizi su quel magnifico strumento le toglieva il respiro. Per Prima che la mamma potesse rispondere, il signor Lawrence, con un cenno del capo e un sorrisetto curioso, proseguiva. Nessuno le vedrebbe, non avrebbero da dirlo a nessuno, perché io sto chiuso nel mio studio, all'estremo opposto della casa. Lori sta molto fuori e le persone di servizio dopo le 9 da quella parte non si avvicinano mai. E mentre diceva questo si alzava come per andar via. Intanto Beth si decideva a parlare, visto che la proposta, fatta a quel modo e con quelle condizioni, non lasciava null'altro a desiderare. Diteglielo, ve ne prego, alle signorine, riprese il vecchio. Se non ne hanno voglia, pazienza. Ma in quel momento sentì una manina che si infilava nella sua e Beth gli levò gli occhi sul volto con uno sguardo pieno di gratitudine e, timida ma risoluta, gli diceva: Oh no, signore, la voglia ce l'hanno, e come? Ah, sei tu la musicista! Questa volta il signor Lawrence badò a non alzare la voce, a non guardare la truce. Io sono Beth e la musica mi piace tanto e ci vengo se voi mi assicurate che non mi sente nessuno e che non do fastidio. Aggiunse, tremando della sua audacia e con una gran paura di essere sgarbata. Oh, a nessuno darai fastidio, cara. Per metà della giornata la casa è vuota. Puoi venire e pestare finché vuoi, mi farai un regalo. Siete molto gentile, signore. Sotto quello sguardo buono, Beth arrossiva sempre, ma timore non ne aveva più adesso. Voleva esprimere tutta la sua riconoscenza per il regalo prezioso, ma non trovava le parole e stringeva forte, forte la grossa mano del vecchio. Questi le lisciò i capelli con una carezza lieve, si chinò e la baciò, dicendole, in un tono che poche persone avevano udito da lui: Avevo una bimba con gli occhi come i tuoi. Dio ti benedica, piccina mia. Buongiorno, signora. E uscì in fretta. Beth era in estasi. Abbracciò la mamma forte a lungo e poi via a recare la grande notizia alla famiglia delle bambole invalide, visto che le sorelle erano tutte fuori. Come fu lieto il suo canto quella sera e come risero tutte quella notte quando in sogno si mise a suonare il piano sulla faccia di Amy e la svegliò. Il giorno dopo, quando fu sicura che tanto il vecchio Lawrence che il giovane erano usciti, ella si mosse, ma per due o tre volte si arrestò esitante e tornò indietro. Alfine, entrando per una porticina laterale, silenziosa come un topolino, si arrischiò fino al salotto. Là stava il suo idolo. Sopra, come per caso, avevano posato qualche bella musichetta facile. Con mano tremante, fermandosi più volte a tendere l'orecchio e a guardarsi attorno, Beth, alfine, lo toccò, il mostro terribile e magnifico. Allora dimenticò subito la paura, dimenticò se stessa, dimenticò ogni cosa che non fosse la gioia indicibile che le dava la musica, come la voce di un'amica diletta. Vi rimase finché venne a prenderla Anna per condurla a pranzo, ma non aveva appetito e rimase lì seduta a girare lo sguardo beato su tutto e su tutti. Da allora in poi il cappuccetto marrone infilò quasi ogni giorno l'apertura nella siepe e nel grande salotto aleggiò uno spirito musicale che non visto vi entrava e ne usciva non visto. Ella non lo seppe mai che più di una volta il signor Lawrence lasciava aperta la porta dello studio per udire le vecchie melodie che gli piacevano. Non si accorse mai che Lori faceva la guardia nell'atrio per tenere lontane le persone di servizio. Non sospettò mai che gli esercizi e le romanze che trovava sul portamusica c'erano stati messi apposta per lei. E quando a casa parlava di musica, pensava soltanto quanto era stato buono quel signore, quel giorno che ci aveva portato il discorso e le aveva dato il coraggio di parlare. Ed era felice, Beth, perché, caso raro nella vita, la soddisfazione del suo desiderio le bastava e non chiedeva altro. Forse perché era tanto riconoscente del beneficio ricevuto, un altro gliene toccò. Li meritava ambedue del resto. Mamma, disse Beth qualche settimana dopo la visita memoranda, gli voglio fare un paio di pantofole al signor Lawrence per ringraziarlo in qualche modo della sua bontà. Non saprei trovare altra maniera. Oh, sì, cara, gli farà molto piacere. È un modo molto simpatico di ringraziarlo. Ti aiuteranno le altre. Se ci sarà qualche spesa la faremo. La mamma la accontentava sempre con molto piacere perché ben di rado Beth le domandava qualcosa per sé. Dopo molto discutere con Meg e con Joe per la scelta del disegno, il materiale necessario fu comperato e il lavoro cominciò. Nel disegno, che fu giudicato grazioso e indovinato, un mazzo di viole del pensiero si staccava da uno sfondo di un violetto più cupo. Beth ci lavorò dalla mattina presto fino alla sera tardi, facendosi aiutare in alcuni punti più difficili. Le sue manine svelte lavoravano come per incanto e il lavoro era finito prima che lei e le collaboratrici ne fossero stanche. Allora, Beth scrisse un bigliettino breve e semplice e con l'aiuto di Lori, biglietto e dono furono deposti furtivamente sulla scrivania dello studio una mattina, prima che il nonno uscisse dalla sua stanza. Calmatasi l'eccitazione dell'audace contrabbando, Beth attese gli eventi. Passò tutta la giornata, passò parte dell'indomani, nulla. Ella cominciava a temere che si fosse offeso il vecchio signore scontroso. Nel pomeriggio, uscita per una commissione e per farla prendere un po' d'aria, come al solito la povera Giovanna, la più invalida delle sue bambole, sulla via del ritorno vide tre, anzi quattro teste che facevano capolino e rientravano dietro e fuori alla finestra del salotto. E appena la scorsero, fu un agitar di mani, un gridar di voci piene di gioia. «C'è una lettera del signor Lawrence, presto, vieni a leggerla!» «Sai, Beth, ti ha mandato!» cominciava Amy gesticolando scompostamente, ma non poté finire perché Joe sbatté giù l'imposta. Tutta vibrante di emozione e di aspettazione, Beth salì in fretta le scale. Sulla porta l'accolsero le sorelle e le fecero seguito trionfalmente, esclamando tutte in una volta: «Guarda un po', guarda cosa c'è!» Beth guardò e impallidì per la gioia e per la sorpresa. Un piccolo pianoforte verticale, con una gran busta sul coperchio, lucente, indirizzata in grandi caratteri a Miss Elisabetta Marche, l'attendeva. «Per me!» fece Beth ansante, aggrappandosi a Joe per non cadere, sopraffatta dall'emozione. «Sicuro, cara? Tutto per te. Splendido, eh? Non è davvero un caro signore, quel vecchio Lawrence? Senti qui, dentro la busta c'è la chiave. Non abbiamo aperto, ma moriamo dalla voglia di vedere». E Joe la sorreggeva con un braccio, mettendole sotto gli occhi la busta con la mano che aveva libera. «Apri tu, io non posso leggere, mi sento così strana», disse Beth, nascondendo il volto nel grembiule della sorella. Era davvero sottosopra. Joe aperse e cominciò a leggere. «Alla signorina March. Cara signorina, ma l'interruppe Amy, che bell'effetto fa, eh? Vorrei che scrivessero anche a me così. L'indirizzo all'antica, ripetuto nella lettera prima dell'appellativo per Amy, era il colmo dello chic». Joe riprese a leggere. «Nella mia vita ho avuto molte paia di pantofole, ma nessuna mi andava bene al piede come il vostro. La viola del pensiero è il mio fiore preferito e le vostre mi ricorderanno sempre la gentile donatrice. Siccome mi piace di pagare i miei debiti, permettete al vecchio signore di mandarvi una cosa che ha appartenuto alla nipotina che egli ha perduto. Coi ringraziamenti più cordiali e gli auguri migliori, vi prego di credermi il vostro riconoscentissimo e devotissimo servitore, James Lawrence». «È un onore questo che ne puoi andare veramente fiera, Beth. Lori mi ha detto il bene che le voleva il signor Lawrence alla piccola nipote che gli è morta e con che devozione conserva anche i minimi ricordi di essa che gli restano. E ti regala proprio il suo pianoforte. Ecco cosa vuol dire avere gli occhi grandi e azzurri e amare la musica. Ma guarda com'è bello, guarda come sono ingegnosi questi braccioli per le candele e che magnificenza quel broccato di seta verde con la rosa nel mezzo. È tutto completo, non gli manca nulla, nemmeno il portamusica e lo sgabello», osservò Meg aprendo lo strumento e mettendo in vista le bellezze. «Oh, riconoscentissimo e devotissimo servitore James Lawrence. Niente di meno. Lo dirò alle compagne. Moriranno d'invidia», disse Amy, che non finiva di meravigliarsi per la cortesia un po' giù di moda della lettera. «Provalo, cara, facci sentire che voce ha il figlio del piano grosso», disse Anna, sempre a parte delle gioie e dei dolori della famiglia. E Beth lo provò, e tutte trovarono che era lo strumento più meraviglioso del mondo. Naturalmente era stato accordato allora e messo in ordine perfetto. Ma la sua vera bellezza erano quei quattro volti felici che vi si specchiavano, mentre Beth, con mano delicata, quasi materna, sfiorava la bella tastiera bianca e nera e manovrava col piedino i pedali lucenti. «Ora devi andarlo a ringraziare», disse Joe per ischerzo, senza pensare affatto che Beth ci andasse davvero. «Sicuro che ci vado, meglio subito, anzi, prima che mi venga la paura a forza di pensarci». E con gran sorpresa di tutta la famiglia riunita, Beth discese, risoluta in giardino. Passò per il buco della siepe ed entrò nella casa dei Lawrence. «Oh, questa poi! Fatto girar testa piano, se stare in sé, non andare mai!» esclamava Anna, seguendola con lo sguardo. Le sorelle erano a bocca aperta. Ma ancora più grande sarebbe stato lo stupore se avessero visto quello che Beth fece dopo. Parrà incredibile, ma andò proprio a bussare alla porta dello studio, sempre di corsa per non avere tempo di pensarci. E quando la voce burbera di dentro gridò «Avanti!», entrò, andò dritta dal signor Lawrence. Stupito anche lui. Gli tese la mano e gli disse con la voce che tremava appena un po': «Sono venuta a ringraziarvi, signore, per...» Ma non finì, perché egli la guardava con due occhi così buoni che lei dimenticò il discorsetto e solo ricordandosi della bimba adorata che gli aveva perduto, gli gettò le braccia al collo. Se in quel momento si fosse scoperchiato il tetto della casa, il vecchio signore non si sarebbe stupito maggiormente. Ma il gesto gli piaceva, oh, se gli piaceva quel piccolo bacio pieno di confidenza, lo commosse tanto che tutta la sua severità svanì in un momento. La prese sulle ginocchia e con la gota grinzuta su quella rosea di lei, gli parve che la nipotina morta fosse ritornata. Da quel momento Beth non ebbe più timore del vecchio signore e rimase lì a parlargli sicura e tranquilla come se lo conoscesse da quando era nata. L'amore dissipa il timore e la gratitudine è più forte dell'orgoglio. Quando ella andò via, il signor Lawrence l'accompagnò fino al cancello, le strinse la mano cordialmente e nel lasciarla si toccò la falda del cappello, dritto e solenne come un bel soldato qual era. Quando le altre seppero come si erano svolte le cose, Joe si mise a ballare la giga per esprimere la sua soddisfazione. Amy per poco non cascò dalla finestra per la sorpresa e Meg, levando le braccia, esclamò: «Questa è proprio la fine del mondo!»